Capitolo 23. Passò un'ora prima che il generale rientrasse e la sua giovane ospite la impiegò a riflettere in modo ben poco benevolo sul suo carattere. Queste assenze prolungate, queste passeggiate solitarie, non testimoniano di una mente serena o di una coscienza senza macchia. Infine egli apparve e, per quanto tetre potessero essere state le sue meditazioni, con loro riusciva ancora a sorridere. La signorina Tilney, che aveva compreso in parte la curiosità dell'amica di vedere la casa, riprese subito l'argomento e il padre, dato che, contrariamente alle aspettative di Catherine, non aveva nessun pretesto da addurre per ritardare ancora quel momento, si dichiarò finalmente pronto ad accompagnarle, dopo un ritardo di soli 5 minuti impiegati a ordinare qualcosa da mangiare per il loro ritorno. Si incamminarono e con aria solenne e passo fiero, cosa che poteva colpire l'occhio di Catherine ma non scuotere i suoi dubbi che tanto aveva letto in proposito, fece strada attraverso l'atrio, il soggiorno e una superflua anticamera fino a una stanza magnifica sia per le dimensioni che per il mobilio, il vero e proprio salotto usato solo quando c'erano ospiti importanti. Era così splendido, grandioso, affascinante, fu tutto quello che Catherine ebbe da dire, poiché il suo sguardo inesperto notava a malapena il colore del raso e a tutti gli apprezzamenti più particolareggiati, a tutte le lodi più significative dovette provvedere il generale. Il valore o l'eleganza dell'arredamento o di una qualsiasi stanza non le dicevano niente, né la interessavano mobili posteriori al XV secolo. Quando il generale ebbe soddisfatto la propria curiosità, esaminando minuziosamente ogni ornamento già a lui ben noto, passarono alla biblioteca, una sala nel suo genere di uguale magnificenza, che esibiva una collezione di libri che avrebbe riempito d'orgoglio anche l'individuo più modesto. Catherine ascoltò, ammirò ed espresse la sua meraviglia con maggiore sincerità di prima. Approfittò, per quanto poté, di quella miniera dello scibile umano, scorrendo i titoli di mezzo scaffale, e fu pronta ad andare avanti. Ma non le si pararono davanti sfilate interminabili di stanze come desiderava. Per quanto grande fosse l'edificio, ne aveva già vista la maggior parte. Le fu detto che insieme alla cucina, le 6 o 7 stanze che avevano appena visto corrispondevano a 3 lati del cortile, ma lei fu incerta se credervi o meno. E non poté scacciare del tutto il sospetto che ci fossero molte camere segrete. Si consolò comunque perché, per tornare nelle solite stanze, passarono per qualche altra di minore importanza che dava nel cortile, il quale, insieme ad altri passaggi alquanto tortuosi, collegava i diversi lati e fu ancora più confortata quando seppe che stavano attraversando quello che una volta era stato un chiostro. Quando le indicarono le tracce delle antiche celle e poté osservare diverse porte che né furono aperte né le fu spiegato dove portassero. Quando in seguito si ritrovò in una sala da biliardo e nell'appartamento privato del generale, senza capire come fossero collegati e senza saper girare dalla parte giusta quando li lasciarono, e infine, quando passarono attraverso una scura stanzetta di proprietà di Harry, dove erano ammassati alla rinfusa vecchi libri, fucili e cappotti. La sala da pranzo l'avevano già vista e dovevano vederla ogni giorno alle 5, ma il generale non seppe rinunciare al piacere di misurarne a grandi passi la lunghezza per comunicarla con esattezza alla signorina Morland, la quale non ne dubitò, né peraltro gliene importava. Passarono quindi rapidamente in cucina, l'antica cucina del convento che poteva vantare le mura massicce, il caminetto dei tempi passati e stufe e fornelli del tempo presente. La passione del generale per i miglioramenti non aveva perso tempo. Era stata adottata ogni invenzione moderna che potesse facilitare il lavoro dei cuochi in questo che era il loro vasto regno e dove l'ingegno degli altri era venuto meno, era stato spesso quello del generale che aveva ottenuto la perfezione desiderata. Le sole donazioni concesse a questa stanza lo avrebbero collocato, in qualsiasi epoca, tra i maggiori benefattori del convento. Con le mura della cucina terminava la parte antica dell'abbazia. Il quarto lato del quadrato era stato demolito dal padre del generale perché era ormai completamente in rovina e al suo posto era stata eretta l'attuale costruzione. Tutto quello che c'era stato di venerabile finiva qui. Il nuovo edificio non soltanto era nuovo, ma si proclamava tale. Era stato costruito per ospitare i servizi e alle sue spalle c'erano i cortili delle scuderie. Quindi non si era ritenuto necessario uniformare la sua architettura a quella della parte antica. Catherine era furiosa contro la mano che aveva spazzato via quello che forse valeva più di tutto il resto a beneficio della banale economia domestica, e avrebbe volentieri evitato la mortificazione di una passeggiata attraverso scenari così poco nobili rispetto ai primi, se il generale glielo avesse permesso. Ma se c'era qualcosa di cui gli andava orgoglioso era la sistemazione dei servizi. Era inoltre convinto che la vista delle attrezzature e delle comodità che alleggerivano la fatica degli inferiori non potesse che far piacere a un animo come quello della signorina Morland, quindi non si sentì minimamente in dovere di scusarsi per avercela trascinata. Diedero un'occhiata un po' a tutto e Catherine restò colpita, al di là di quanto si aspettasse, dalla varietà e dalla praticità alle quali tutto era improntato. Quei compiti per cui a Fullerton venivano considerati sufficienti qualche stanzino adibito a dispensa e uno scomodo retrocucina, qui venivano eseguiti in settori appositi, grandi e spaziosi. Il numero dei servitori che comparivano continuamente non la colpì meno della suddivisione razionale delle loro incombenze. Dovunque andassero, c'era qualche servetta che si fermava per inchinarsi o qualche valletto senza divisa che cercava di svignarsela. Eppure questa era un'abbazia. Era incredibile la differenza tra questa organizzazione domestica e quella delle abbazie e dei castelli dei quali aveva letto, dove, benché fossero certamente più grandi di Northanger, tutti i lavori pesanti della casa venivano eseguiti al massimo da un paio di donne. La signora Allen si era spesso stupita di come queste potessero fare tutto, e ora che Catherine poteva rendersi conto di quante cose fossero necessarie, incominciò a stupirsi anche lei. Ritornarono nell'atrio per risalire dallo scalone principale e mostrare a Catherine la bellezza del suo legno e gli ornamenti riccamente intagliati. Giunti in cima, girarono in una direzione opposta a quella del corridoio in cui si trovava la sua stanza, e quindi passarono in un altro corridoio che si trovava sullo stesso piano, ma che era più lungo e più largo. Le furono allora mostrate tre grandi camere da letto con i rispettivi spogliatoi, arredate nel modo più accurato e squisito. Questi appartamenti erano stati dotati di tutto quello che il denaro e il buon gusto potevano procurare per renderli confortevoli ed eleganti e, dato che erano stati ammobiliati negli ultimi 5 anni, contenevano tutto ciò che generalmente piace e mancavano di tutto ciò che sarebbe piaciuto a Catherine. Mentre visitavano l'ultimo, il generale, dopo aver nominato distrattamente qualcuno dei personaggi più illustri che li avevano onorati della loro presenza, si rivolse sorridente verso Catherine e aggiunse che si permetteva di sperare che d'ora in poi tra i loro ospiti più assidui potessero figurare i nostri amici di Fullerton. Il complimento inaspettato le fece piacere e lei rimpianse amaramente di non poter avere una buona opinione di un uomo che era così gentile verso di lei e così pieno di cortesie verso tutta la sua famiglia. Il corridoio finiva con una porta scorrevole che la signorina Tilney, precedendole, aveva aperto perché gli altri vi passassero. Pareva sul punto di fare la stessa cosa con la prima porta a sinistra, che portava un'altra lunga ala del corridoio, quando il generale avanzò verso di lei e la richiamò in fretta e, pensò Catherine, in tono piuttosto irato, chiedendole dove stava andando, che cos'altro c'era da vedere. La signorina Moland non aveva già forse visitato tutto quello che era degno di nota? E non pensava che l'amica poteva desiderare di fare uno spuntino dopo aver girato tanto? La signorina Tilney tornò indietro immediatamente e le pesanti porte vennero richiuse in faccia alla povera Catherine che, poiché aveva visto con una rapida occhiata un passaggio più stretto, numerose aperture e, se non si era sbagliata, una scala a chiocciola, aveva creduto di essere finalmente vicina a qualcosa di veramente interessante. Pensò dunque, mentre di malavoglia ripercorreva il corridoio, che avrebbe preferito le fosse concesso di visitare quell'ala della casa piuttosto che vedere tutte le altre sue magnificenze. L'evidente desiderio del generale di impedire tale ispezione rappresentava un ulteriore stimolo. Certamente c'era qualcosa che doveva restare nascosto. La fantasia anche se ultimamente aveva passato i limiti una volta o due, in questo caso non poteva fuorviarla, e sembrò che una breve frase della signorina Tilney, pronunciata mentre scendevano le scale a una certa distanza dal generale, indicasse cos'era quel qualcosa. Stavo per portarvi in quella che era la camera di mia madre, la camera in cui morì, furono le sue parole, ma per quanto poche esse rappresentarono per Catherine una miniera di informazioni. Non c'era da meravigliarsi che il generale rifuggisse dalla vista degli oggetti che quella stanza doveva contenere, una stanza in cui molto probabilmente non era più entrato da quando vi si era svolta la terribile scena che aveva liberato sua moglie da ogni sofferenza e aveva lasciato lui in preda ai rimorsi della coscienza. Si azzardò, quando si ritrovò sola con Eleanor, a esprimerle il proprio desiderio di poter vedere quella stanza e anche tutto il resto di quel lato della casa, ed Eleanor promise di accompagnarvela non appena fosse capitata l'occasione. Catherine capì quello che l'altra intendeva. Bisognava controllare che il generale non fosse in casa prima di poter entrare in quella stanza. È rimasta com'era, immagino, disse in tono comprensivo. Oh sì, completamente. E da quanto tempo è morta vostra madre? Sono 9 anni. E Catherine sapeva che 9 anni erano una sciocchezza se paragonati al tempo che in genere passava dopo la morte di una moglie trattata ingiustamente prima che la stanza fosse rimessa a posto. Immagino siate state con lei fino all'ultimo. No, disse la signorina Tilney con un sospiro. Sfortunatamente non ero a casa. La malattia fu rapida e improvvisa e prima che io arrivassi era già tutto finito. A Catherine si gelò il sangue nelle vene al pensiero degli orrori che queste parole suggerivano con tanta evidenza. Era possibile che il padre di Harry. Oh! Eppure quanti esempi vi erano che giustificavano i sospetti più atroci? E quando la sera, mentre cuciva insieme all'amica, lo vide misurare lentamente a grandi passi il soggiorno per un'ora intera, silenzioso e soprappensiero, gli occhi abbassati e la fronte aggrottata, si sentì sicura al 100% che non stava giudicandolo in maniera sbagliata. Quelli erano l'aria e l'atteggiamento di un Montoni. Come avrebbe potuto esprimere più chiaramente il penoso lavorio di un animo non ancora del tutto insensibile a ogni senso di umanità, mentre passava in rivista le paurose scene passate della colpa? Uomo infelice. In ansia com'era, lo guardò tanto spesso che alla fine la signorina Tilly se ne accorse. Mio padre, bisbigliò quest'ultima, passeggia spesso per la stanza in questo modo, non c'è niente di insolito. Peggio ancora, pensò Catherine, questo esercizio inopportuno andava ad aggiungersi all'altrettanto inopportuno e strano orario delle sue passeggiate mattutine, non faceva presagire nulla di buono. Dopo una serata che le era parsa così monotona e interminabile da farle sentire acutamente il peso dell'assenza di Harry, Catherine fu sinceramente felice di essere congedata, benché la signorina Tilney fosse andata a suonare il campanello dopo un'occhiata del generale che all'ospite avrebbe dovuto passare inosservata. Quando il maggiordomo stava per accendere la candela del padrone, comunque quest'ultimo glielo impedì. Lui per ora non si ritirava. Devo ancora finire diversi pamphlet, disse a Catherine, prima di poter riposare, forse rimarrò a studiare gli affari della nazione per molte ore dopo che voi sarete addormentate. Potremmo tutti noi avere un'occupazione più conveniente? I miei occhi si indeboliranno per il bene altrui e i vostri si prepareranno con il riposo a futuri misfatti. Ma né gli impegni adotti né il complimento gentile poterono impedire a Catherine di pensare che doveva esserci un altro motivo perché gli ritardasse tanto il giusto riposo. Non era molto probabile che rimanesse in piedi per ore dopo che tutta la famiglia era a letto per degli stupidi opuscoli. Doveva esserci una causa più profonda, qualcosa da fare che poteva essere fatto solo quando i familiari dormivano e la probabilità che la signora Tilney fosse ancora viva, segregata per cause sconosciute e ricevesse ogni notte dalle mani dello spietato marito una razione di cibo stantio, rappresentava la più logica conclusione. Per quanto quest'idea fosse sconvolgente, era almeno migliore di quella di una morte iniquamente affrettata, dato che era nel corso naturale delle cose che ella ora dovesse venire presto liberata. Il carattere improvviso della pretesa malattia, l'assenza della figlia e probabilmente anche degli altri figli proprio in quel periodo, Tutto favoriva l'ipotesi di una segregazione. La causa, forse gelosia o perversa crudeltà, era ancora tutta da dipanare. Mentre svestendosi considerava tutto questo, la colpì improvvisamente il pensiero che probabilmente lei stessa quella mattina era passata proprio vicino al luogo in cui quella sfortunata dama era confinata, che forse si era trovata a pochi passi dalla cella in cui l'altra languiva giorno dopo giorno. Infatti, quale parte dell'abbazia poteva essere più adatta allo scopo se non quella che ancora portava i segni dell'antica struttura monastica? Ricordava bene che nell'alto passaggio ad arco, pavimentato di pietra, che aveva attraversato con particolare reverenza, c'erano delle porte di cui il generale aveva taciuto. E dove altro potevano portare quelle porte? A rendere ancora più plausibile questa congettura, le tornò anche in mente che la galleria proibita, in cui si trovavano gli appartamenti della sfortunata signora Tilney, doveva essere, se la memoria non la tradiva, esattamente sopra quelle celle di cui sospettava l'esistenza, e la scala che fiancheggiava quegli appartamenti, alla quale aveva potuto dare solo una rapida occhiata e che certamente comunicava segretamente con quelle celle, avrebbe potuto benissimo favorire i barbari intenti del marito. Lei forse era stata trasportata giù per quella scala in uno stato di incoscienza provocato ad arte. A volte Catherine era spaventata dall'audacia dei suoi stessi sospetti e altre sperava o temeva di essersi spinta troppo in là, ma questi sospetti sembravano troppo ben fondati per poterli abbandonare. Dato che il lato del quadrato in cui immaginava che si svolgesse la scena della colpa era, secondo quanto credeva, proprio di fronte al suo, la colpì il pensiero che se si fosse messa prudentemente in osservazione, avrebbe forse scorto alcuni raggi di luce della lampada del generale filtrare dalle basse finestre mentre egli andava alla prigione della moglie e due volte, prima di mettersi a letto, sgusciò pian piano fuori dalla sua stanza fino alla finestra corrispondente alla galleria, per vedere se quella luce compariva. Ma fuori il buio era completo, doveva essere ancora troppo presto. I diversi rumori che salivano fino a lei la convinsero che la servitù doveva essere ancora in piedi. Fino a mezzanotte ogni sorveglianza probabilmente era vana, ma quando l'orologio avesse suonato le 12, tutto sarebbe stato silenzio e lei sarebbe sgusciata fuori a guardare ancora una volta. L'orologio suonò le 12 e Catherine dormiva già da mezz'ora.